24, i gialli della storia. Mio nonno, Fangio, quando arrivò in Argentina, appena scese dalla nave, la prima cosa che vide fu un gruppo di operai che aveva preparato un'enorme grigliata di carne, salsicce, bracciole, di tutto. Così mio nonno si mise a guardarli con quegli occhioni grandi che aveva. Era sbalordito. Allora uno di quei signori che stavano lì tagliò una bella fetta di pane e ci mise sopra di tutto, salsicce, bracciole, sanguinaccio. E quando gli diede il primo morso, fu per lui come toccare il cielo con un dito. Tanto che la prima cosa che disse fu: «Italia, non mi vedrai mai più», perché laggiù aveva sofferto tanta di quella fame. Dalla seconda metà dell'Ottocento ai primi decenni del Novecento, milioni di italiani emigrano in Argentina. Lasciano povertà, disperazione e soprusi. L'Italia, appena unita, non offre speranze di un futuro. Quella in Argentina sarà un'emigrazione particolare. Gli italiani contribuiscono a creare un grande paese che diventerà la loro patria. Oggi a Mix 24, il giallo della storia, raccontiamo le emozioni, i segreti dei protagonisti di quella grande avventura, vicenda di integrazione e successi, di delusioni e fallimenti. Tutto inizia intorno al 1850, come ricordano Ugo Gambini, Alicia Bernasconi e Fernando Devoto. Il primo Gambini che arrivò qui era mio nonno, e questo fu nel 1865, più o meno, quando arrivarono qui i genovesi, che furono i primi italiani ad installarsi alla foce del Rio della Plata. Questa emigrazione è in gran parte, ma non esclusivamente, vincolata alla navigazione ed è visibile nella città di Buenos Aires, nel quartiere di La Boca. Da una parte sono questi genovesi e dall'altra parte sono gli esuli mazziniani, garibaldini, che hanno anche un ruolo importante soprattutto nella creazione delle prime istituzioni della comunità italiana. Il picco della migrazione italiana è stato tra il 1890 e il 1914. In vent'anni arrivarono 6 milioni di europei, 4 milioni di italiani e 2 milioni di spagnoli. Beh, questa è un'esperienza di massa, no? I numeri sono molto grandi, è un'esperienza che coinvolge tutte le regioni d'Italia, o quasi tutti, inizialmente le regioni del nord, piemontesi, lombardi, e dopo le regioni del sud, soprattutto calabresi, e dopo anche i siciliani. Questa è una grande differenza se uno fa la comparazione tra l'emigrazione in Argentina e l'emigrazione in altri paesi. Negli Stati Uniti noi troviamo gli italiani soprattutto tra gli operai, in Argentina noi troviamo gli italiani tra gli imprenditori e tra gli operai. Dunque questo fa sì che gli italiani si inseriscano in tutte i livelli della struttura sociale argentina, e fino alla prima guerra mondiale noi possiamo dire che gli italiani hanno avuto abbastanza successo. Pensi, nel 1887 gli italiani erano quasi il 40% degli abitanti della città di Buenos Aires, di tutta la città di Buenos Aires. La prima crisi economica fa vedere gli italiani come dei nemici, degli intrusi che vogliono modificare le abitudini e la cultura di un paese. È necessario difendersi. E gli italiani come si difendono? A parlarne Osvaldo Baiana, Alicia Bernasconi e German Garcia. Il viaggio era fatto in condizioni molto primitive. E quando arrivavano qui si fermavano all'hotel degli immigranti, dove, fino a che non trovavano lavoro, potevano fermarsi per un massimo di 60 giorni. C'erano dormitori molto grandi, dove dormivano tutti insieme. Però nel caso degli italiani, io devo dire che appena un po' meno di la metà degli immigrati andavano nell'hotel di Migrantes. chauffeur che normalmente scendevano al barco avevano già le sue reti, le sue connessioni, andavano da paesani che normalmente erano ad aspettarli già nel porto. I primi anni furono molto difficili. Per esempio la vita in case comuni chiamate conventillos, dove vivevano insieme in 130. Famiglie di quattro persone abitavano in una piccola stanza. E in tutto il conventillo c'era un solo escusado, come chiamavano il gabinetto. E con gli italiani e gli spagnoli. E con gli italiani e gli spagnoli arriva qualcosa di nuovo per l'Argentina. L'organizzazione del movimento operaio. In pochi anni si costituiscono i sindacati, dal 1860 in poi. Le lotte operaie e la partecipazione degli italiani massicciamente nei movimenti operai ha portato le autorità argentine a fare passare in congresso una legge, la ley de residencia, una legge che autorizzava il potere esecutivo a cacciare fuori gli stranieri che erano attivi politicamente o che in alcuna maniera costituivano una minaccia per la società argentina. Qui in Argentina si è formata una comunità italiana molto solida, al punto che è capace di far nascere le prime organizzazioni sindacali a difesa dei lavoratori. E allora il governo argentino inventa la legge di residenza, con la quale è possibile rimpatriare chi si occupa attivamente di politica. Sarà uno scontro durissimo. E il collante sarà la musica, lo raccontano Oscar Del Priore, Fernando Devoto e German Garcia. L'arrivo di Caruso e di Toscanini fu molto festeggiato dagli italiani, perché gli italiani erano amanti della lirica, tanto che qui c'erano molte associazioni italiane che si erano formate proprio per diffondere l'opera. Tutte queste compagnie italiane che non andavano soltanto a Colonna, andavano a tutto il Teatro Roma di Avellaneda, tanti teatri, no? E erano i pubblici più attenti. Non per fare un confronto musica colta, musica popolare, no? Per dire che gli italiani sono dappertutto, sono anche nel tango. Gli italiani lasciavano ovunque la loro impronta, avevano portato la loro musica e scoprirono che qui si ballava la habanera, la milonga, il tango. E così si produsse quello che venne definito il tango creolo. E il creolo era proprio il figlio degli immigranti. L'orchestra di tango si comincia a definire a seconda di come si sviluppa l'organizzazione stessa dell'emigrazione. Per esempio, arrivano gli ebrei e portano il violino che si suonava nella sinagoga. Poi arrivano altri che portano un tipo di fisarmonica che è uno strumento italiano. Altri portano uno strumento tedesco. E il risultato è che la stessa orchestra diventa una specie di disco di Newton dell'immigrazione. La quantità di italianismi che ci sono nel linguaggio popolare è impressionante. Ci sono canzoni che cominciano in italiano e passano allo spagnolo. Quando piango, sole mio, senza mamma, senza amore, sento un freddo qui nel cuore e vanno avanti in spagnolo. Quando escucho sole mio, senza mamma, senza amore, siento un frío aquí en el cuore que me llena de ansiedad. La crisi economica in Europa intorno agli anni 20 provoca una nuova forte immigrazione verso l'Argentina. Molti antifascisti invece sono alla ricerca di un rifugio sicuro. Tra questi un punto di riferimento sarà l'anarchico Severino De Giovanni. Ma intanto com'è la situazione politica in Argentina? Nel 1930 si afferma la prima dittatura militare. Lo ascoltiamo nei racconti di Alicia Bernasconi, Osvaldo Bayern e Fernando Devoto. Nel primo dopoguerra riprende l'immigrazione e anche comincia a venire un'immigrazione, dopo il 1922, rapidamente un'immigrazione degli antifascisti anche in Argentina. Muchos de esos Molti di questi anarchici, che erano fuggiti dalla Spagna o dall'Italia, poi si organizzarono qui, pubblicavano giornali. Il caso più rilevante fu quello di Severino Di Giovanni. Era un combattente antifascista, era stato maestro ed era stato espulso dall'Italia. Cominciò a riunirsi con altri compagni e per lui la unica soluzione era l'uso della violenza contro le organizzazioni fasciste. La sua prima azione fu quando il presidente argentino Alvear rese omaggio all'ambasciatore italiano al Teatro Colón, il più grande teatro dell'opera. Così arrivò Severino Di Giovanni e lanciò in aria volantini contro l'ambasciatore italiano. Naturalmente scoppiò un enorme scandalo. Severino venne arrestato e da quel momento cominciò ad essere un perseguitato politico e cominciò a vivere nell'illegalità. Nell'epoca stessa in cui visse, Di Giovanni fu forse un personaggio eroico per la classe operaia, non certo per la classe media o alta. Però certo restò un personaggio mitico per la fantasia popolare. Alla fine, quando andò al potere la dittatura militare del generale Uriburu, Severino Di Giovanni venne sorpreso mentre usciva dalla tipografia dove stampava il suo giornale. Venne arrestato, processato e condannato a morte. Tra il 30 e il 40 l'emigrazione verso l'Argentina si ferma. Il regime fascista blocca la possibilità di andare oltreoceano per non disperdere risorse e cultura. Per gli italiani residenti in Sud America sarà il momento di maggiore integrazione, anche dal punto di vista culturale. Gli italo-argentini entrano prepotentemente anche nel mondo dello spettacolo. Protagonista di questa avventura è una donna, si chiama Titta Merello, cantante e attrice drammatica straordinaria. Ne parlano Fernando Devoto, Oscar Del Priore e German Garcia. Quando comincia il cinema sonoro, anche questo ha a che vedere con il tango. Le prime intrusioni nel cinema sonoro furono i cortometraggi firmati da Carlos Gardel. Tita Merello fece molti film con le tematiche tipiche di Buenos Aires, dell'ambiente del tango, ma anche altre che non avevano niente a che fare, perché si cimentò in ruoli drammatici molto importanti, come Filumena Marturano di De Filippo. Il caso di Tita Merello è la tipica affermazione populista, perché chi era Tita Merello? Per esempio, una donna che era cresciuta nei bassi fondi e che aveva un oscuro passato, eccetera, eccetera, e un ricco che vorrebbe prenderla per qualche suo capriccio, e alla fine lei gli fa una lezione di morale. In un momento di forte crisi per la politica argentina, sale al potere Juan Perón. Il suo progetto sarà quello di dare maggior dignità al lavoro e di eliminare la povertà, ma con una certa simpatia per il fascismo. Sono mesi difficili, grandi scontri sociali. Il paese ha bisogno di idoli. L'eroe degli italo argentini si chiama Juan Manuel Fangio. Ne parla la nipote Ethel e Ugo Gambini. Juan Manuel Fangio, che era di origine italiana naturalmente, era un uomo di campagna, però venne a Buenos Aires sempre affascinato dalle automobili. Iniziò come meccanico. In poco tempo si trasformò in un vero e proprio idolo popolare. Aveva un amico, Oscar Galvez, che era altrettanto bravo, forse addirittura migliore di lui. Quelli che erano per la Ford erano con Galvez, quelli per la Chevrolet erano con Fangio. I due furono molto aiutati dal governo di Perón, che dava molta importanza allo sport. Solo che mentre Galvez lo riconosceva, diceva: sì, però mi aiutò molto in questo e in quello. Fangio invece, quando glielo chiesi, faceva finta di non ricordarselo. L'argentino trionfa. Le piste non hanno mai conosciuto un corridore della sua qualità. È il 1957. Fangio è il primo pilota che conquista per la quinta volta il titolo mondiale. Raggiunse tutti questi successi e divenne davvero un personaggio importante. E in qualche maniera rappresentò il riscatto degli argentini di origine italiana, che tornavano alla madrepatria con qualcosa di nuovo da mostrare con orgoglio. Ed erano i titoli. Le simpatie di Perón per il fascismo non vengono perdonate, anche perché dopo la guerra molti fascisti si rifugeranno in Argentina, tra questi Agostino Rocca. Sarà anche il momento della modernizzazione. Protagonista di questo grande sviluppo industriale è un altro italo argentino destinato in pochi anni a diventare presidente della Repubblica. Sarà un presidente molto amato, nonostante alcune contestazioni seguite al suo incontro con Che Guevara e Fidel Castro. Alla fine verrà deposto dai militari. La larga maggioranza dell'immigrazione dopo guerra continuano a essere lavoratori. E c'è un gruppo di fascisti qui e c'è un gruppo di fascisti anche in Brasile e in altri paesi. La seconda volta, anzi la terza che arrivano qui gli italiani, è già tutto fatto. Si integrano completamente con quello che c'è già. Un grande presidente argentino fu Arturo Frondizi, che ancora una volta era di sangue italiano. I suoi venivano da Gubbio. Frondizi fu veramente un grande statista, che non ebbe la sorte di poter governare in pace. Aveva avuto contro tutti, i peronisti che pure lo avevano votato, i militari che non lo hanno mai amato, i partiti politici che per ragioni diverse gli erano tutti contro. L'unica cosa che aveva dalla sua parte era la Chiesa, che però non era sufficiente per mantenerlo al potere. Lo sviluppo industriale, questo voleva Frondizi, senza abbandonare quello che produceva l'agricoltura, ma soprattutto produrre lo sviluppo industriale. E lo fa in una maniera simile a quella che si stava facendo in quegli anni in Italia, dove c'erano analoghi piani di sviluppo. Era un uomo molto equilibrato. Quando venne in visita il Che Guevara, lo criticarono, gliene dissero di tutti i colori, che stava diventando comunista. Sempre gli davano del comunista, ma non lo era affatto. Semplicemente voleva dare la possibilità a Cuba di fare un accordo con gli Stati Uniti, una cosa che chiedeva Fidel Castro. Ora per molti immigrati l'Argentina è la patria. Attraversano di nuovo l'oceano e tornano in Italia come oriundi, come capita a Sivori, Maschio, Angelillo. Maschio, Angelillo e Sivori furono venduti subito alle squadre italiane e vennero chiamati gli angeli dalla faccia sporca. Io credo che tutti e tre erano speciali, ma Sivori era il più speciale. Per dirla in modo colloquiale, diremo che era il più scugnizzo dei tre, il più sfrontato, quello con più iniziativa, quello che rischiava di più. Naturalmente l'Argentina è molto orgogliosa quando un argentino si fa notare fuori del paese. Perché quando uno torna alla terra dei padri, si dice sempre che torna o sconfitto o in trionfo. Io le devo molto all'Italia e questo lo dico sinceramente. Ho vissuto, diciamo, qua la mia gioventù, perché sono arrivato che avevo 21 anni, adesso ne ho 30. Ho avuto la gioia di avere tre bambini nati a Torino e mi piace moltissimo questo paese, Torino in particolare. Omar, ma San Nicola, dei suoi ricordi di San Nicola, che cosa è rimasto vivo dentro di lei? Bene, quello non si dimentica mai, perché il paese dove uno nasce senz'altro che rimane sempre è nel cuore, ma oggi mi sento anche un po' italiano. Ma oltre al calcio, il collante che legherà la cultura argentina con quella italiana sarà la musica. Il suo rappresentante più noto è un fisarmonicista straordinario che darà una nuova dignità al tango e alla musica popolare, arricchendola di nuove contaminazioni. Diventa famoso in tutto il mondo, mentre per gli italo-argentini sarà un mito insuperabile. È Oscar Piazzolla. Il tango tradizionale, quello che si suonava prima di Piazzolla, era arrivato a una sorta di paralisi, di avvitamento in se stesso, e si era fermato in una sterile malinconia. Perciò tutti vedemmo in Piazzolla la possibilità di un'apertura, di un futuro. Noi eravamo emigrati dall'Argentina negli Stati Uniti. Avevo l'età di 9 anni quando mio padre arriva a casa con una grande custodia e un bandoneone. un bandoneon a New York nel 1930. E io dico, che roba è? E il bandoneon, uno strumento per suonare il tango. Fu più o meno nel 1934, all'incirca l'epoca dell'arrivo di Gardel. Sì, nel 1934. Arriva Gardel a New York e ha notizia della presenza di un argentino che suona il bandoneon. Un argentino che tocca il bandoneon. E allora Gardel mi invita ad un pranzo offerto da lui e mi porta tutta la musica di un suo film. Me la fa ascoltare ed io con il bandoneon eccomi a suonare il mio primo tango, direttamente con Carlos Gardel. Io penso che un gran percentuale del tango. Io penso che un'alta percentuale dei tanghi è fatta dagli italiani. Direi che l'80, il 90% dei nomi che riguardano la buona musica del tango sono nomi italiani. Era un italiano del sud. Era un tipico italiano del sud. Per questo la sua musica aveva tanto sangue, perché era evidente che l'italianità era qualcosa di importante per lui. Era un temperamento che già aveva dentro di sé. In Europa Piazzolla ebbe molto successo. Fu apprezzato molto più che qui da noi. Qua non era affatto popolare. Al contrario, in Europa cominciò a lavorare come mai prima. E la cosa fece sì che gli europei scoprissero il tango come danza. E anche qui, dopo un po', molta gente giovane ricominciò ad apprezzare il tango attraverso il ballo dopo una lunga pausa. Il 26 marzo del 76, con un colpo di Stato, i militari prendono il potere. Per l'Argentina comincia un incubo. Arresti, torture, omicidi. Una dittatura durata 7 anni e conclusa nell'83, che contribuisce a distruggere le risorse dell'economia e che non si arresta con il ritorno della democrazia. All'inizio del nuovo millennio il paese conosce una nuova devastante crisi economica. Molti italiani progettano di lasciare il paese e di tornare in Italia, un'emigrazione di ritorno per cercare nuova stabilità. È la fine di un sogno durato più di un secolo. Alla fine molta gente fu costretta all'esilio e finì cercando la genealogia dei nonni o dei bisnonni. Di sicuro c'è una ricerca dell'origine di molti discendenti di italiani. I nipoti vogliono ricordare quello che i figli volevano dimenticare. Quando le cose cominciano ad andare male in Argentina, molti italiani o figli di italiani cominciano a pensare: beh, non sarà arrivato il momento in cui conviene ritornarsene laggiù? Molta gente voleva scappare di questo paese. Molta gente aveva perduto tutto o molto di quello che aveva guadagnato nel corso della sua vita, e a quel punto Europa era un mercato di lavoro. Dunque direi che più che emigrazione di ritorno è emigrazione di argentini che cercano fortuna come i loro nonni adesso in Europa. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.